Beh, io vi presento oggi una nuova situazione, cioè il curato d'ARS mandato ad ARS. Dobbiamo purtroppo saltare alcuni capitoli della sua vita molto importanti, come l'ordinazione sacerdotale e i 3 anni passati come vice parroco nel paese dove era prima studente, proprio assistendo il parroco Don Carlo Balli. Ecco, rimane libero questa piccola parrocchia, che poi non è neanche una parrocchia, è una cappellania. Sono soltanto 230 abitanti, 60 famiglie, una borgata fuori mano, dove anche le strade erano impraticabili, per cui era un po' isolata dal mondo. Rimane libera questa piccola parrocchia in quanto che il parroco precedente è morto giovanissimo, dopo neanche un mese di ministero. E allora le autorità della curia si consultano per vedere se mai sia il caso di mandare ancora qualcuno in questa parrocchia, oppure di mandare eventualmente qualche sacerdote volante al sabato e alla domenica per il servizio liturgico. Però dovete sapere che ad ARS c'era pure un piccolo castello dove abitava una specie di contessa, una contessina, veniva chiamata la contessina di ARS, che si chiamava Anna di Garé. Questa contessina di ARS, pur essendo una nobile decaduta, tuttavia aveva ancora voce in capitolo presso le autorità ecclesiastiche, per cui lei stessa è andata a Lione per chiedere che nel suo paese venisse messo un nuovo parroco, e le autorità si lasciarono convincere. Ebbene, pensarono proprio a Don Giovanni Maria Vianney e lo chiamarono in curia per dargli la nomina. Don Giovanni Maria Vianney non sapeva che in questa zona delle diocesi mandavano soltanto, i soggetti che sembravano offrire minori garanzie, i soggetti ritenuti più scadenti, meno capaci. Questa zona della diocesi era considerata un po' una specie di Siberia, diremmo noi oggi. E lui con molta semplicità si recò dal vicario generale per avere questa nomina. Il vicario generale gli disse: «Guardate, Don Giovanni Maria, in quella parrocchia c'è poco amor di Dio. Vuol dire che ce lo porterete voi». E lui risponde: «Eccellenza, io non aspetto altro, questa è la mia missione, di portare amor di Dio nelle anime». «Ah, dimenticavo di dirvi che in quella parrocchia corrono anche pochi soldi. Riceverete dal comune 500 franchi all'anno, che potrebbe voler dire oggi 500.000 lire all'anno, una cifra ben ridicola per mantenersi. Però ricordatevi che in quella parrocchia c'è anche una buona signorina che abita in un castello, certamente vi aiuterà perché è una persona molto credente». Ebbene, Don Giovanni Maria, all'età di 32 anni, il giorno 9 febbraio 1818, parte dal paese dove aveva fatto il viceparroco per recarsi nel suo nuovo campo di lavoro. Siamo in pieno inverno, c'è molta nebbia, per cui il curato d'ARS fa fatica a trovare questo paese. Si incammina con un piccolo bagaglio, con una perpetua, cioè con una vedova che lo aveva aiutato in quegli anni precedenti, che doveva un pochino governargli la casa, almeno i primi tempi. Dietro seguiva una vettura con sopra dei libri che gli aveva lasciato in eredità il suo parroco, appena defunto, con qualche suppellettile e un letto. E mentre brancolava nella nebbia per cercare questo famoso paese, incontrò dei pastorelli che pascolavano i loro greggi e chiese: «Dov'è il castello di ARS?» «Il castello di ARS è da quella parte». Però lui non sapeva che il castello era fuori paese. Ritornato sui suoi passi, chiese di nuovo: «Ma guardate che io sono il nuovo parroco, devo andare ad ARS». Allora finalmente uno di questi pastorelli più intelligente gli diede le indicazioni precise e lui diede una famosissima risposta che mi pare che è immortalata anche da un monumento che c'è ad Arse. Lui dice al pastorello: mio piccolo amico, tu mi hai insegnato la strada di Arse, io ti insegnerò la strada del paradiso. Ecco, si è subito presentato in questo modo, come nuovo parroco. Lui avrebbe seguito questo unico programma, insegnare alla gente la strada del paradiso. E il pastorello intelligente gli dice: guardi, signor curato, che proprio esattamente da questo punto in avanti iniziano i confini della parrocchia. Allora il curato d'Ars si inginocchia con grande, direi, venerazione, a pregare, a baciare la terra, quella terra benedetta che il Signore gli dava, e poi si mette a pregare con grande fervore e prega anche l'angelo custode della sua nuova parrocchia, perché possa compiere tanto, tanto del bene. E appena vede questo piccolo paese, si lascia scappare subito: ma come piccolo, che poche case ci sono. Ma poi è mosso quasi da un presentimento, dice: questa parrocchia è piccola, ma non potrà contenere tutti coloro che più tardi vi verranno. E si inginocchia nuovamente e invoca nuovamente l'angelo custode della parrocchia. Entra in chiesa, si ferma a lungo in preghiera e poi entra in casa per vedere un po' lo stato delle cose. Ma lui la casa interessava ben poco, e vedremo che interesserà poco anche in seguito. Il mattino la gente del paese, che non aveva saputo dell'arrivo del nuovo parroco, sente suonare le campane per la messa. E tutti quanti si guardano in faccia: abbiamo un nuovo parroco. E molti, anche per curiosità, vanno a vederlo. Dobbiamo subito qui smentire una falsa diceria sugli abitanti di Ars, che spesso dai biografi sono stati fatti passare per delle persone davvero cattive, che insomma erano profondamente cattive, dedite al male in tutti i sensi. Invece non era vero, ne prova il fatto che il parroco precedente, che rimase solo un mese, neppure un mese, visto che era così malato, così bisognoso di aiuto, allora gli abitanti di Assi fecero incento per aiutarlo, e chi gli dava qualcosa da mangiare, chi gli procurava della legna per scaldarsi, fu davvero una gara di solidarietà. Quindi non erano cattivi nell'animo, erano soltanto degli indifferenti. Si direbbe che la situazione di Ars di allora non era molto differente dalla situazione che viviamo oggi noi. Una situazione non di cattiveria, tutt'altro, perché la gente si toglierebbe anche la camicia per fare un piacere a qualcuno che soffre. Ma in effetti un paganesimo pratico che penetra nelle anime e che porta alla debolezza dello spirito, anche se non scompare del tutto la fede. Ecco, diciamo che era una parrocchia come tante altre dove si lasciava correre, dove c'era negligenza sui doveri religiosi, dove c'era una certa indifferenza religiosa, non c'erano disordini eccezionali, però soprattutto questo deplorevole stato di dimenticanza, dimenticare Dio, dimenticare la preghiera, dimenticare insomma che siamo qui al mondo per uno scopo e che dobbiamo raggiungere una meta. Si mancava la messa senza rimorso, anche per futili ragioni, si lavorava la domenica senza alcuna necessità, soprattutto durante il periodo estivo, quando c'era molto lavoro nei campi. Poi dobbiamo dire che era molto in uso la bestemmia fra adulti e giovani, anche talvolta ragazzi, fanciulli, che imparavano dai vecchi, molto molto abituati all'osteria. Un paese di 230 abitanti, 4 osterie, sempre piene, affari d'oro per gli osti, e poi soprattutto c'era questa specie di frenesia per il ballo. Oggi noi parliamo delle discoteche, diciamo che i giovani invece di camminare verso l'oratorio camminano verso la discoteca, e allora non era molto diverso. La chiesa si svuotava perché si riempivano le sale da ballo, o meglio, il ballo lo si faceva all'aperto in pubblico. E talvolta si vegliava fino a notte tarda, e queste veglie erano anche occasioni di gravi peccati. Quindi un quadro non lusinghiero, però un paese che assomiglia dopo tutto anche agli altri paesi vicini, né meglio né peggio. Non c'è odio per il sacerdote, c'è nell'insieme un certo fondo di religione, ma c'è poca pietà. Però grazie a Dio il curato d'Assi accorse ben presto che non c'era solo la zizzania, c'era anche il buon grano, c'erano molte famiglie rimaste attaccate ai valori religiosi, soprattutto la famiglia del sindaco, il quale era un perfetto cristiano che sarà uno dei massimi collaboratori del curato d'Ars per rinnovare la faccia della parrocchia. Ecco, adesso vediamo allora il programma del nuovo pastore. Quali sono i suoi programmi? Dobbiamo subito dire che il curato d'Ars non ha perso tempo a lamentarsi di fronte a questo stato di cose, anche se lui vedeva magari anche peggio di quello che era, perché in effetti era una persona molto delicata di coscienza, per cui vedeva con molto orrore il peccato e vedeva anche più peccato di quello che c'era, perché era un santo e quindi i santi vedono ancora di più lo sporco che non gli indifferenti. Ecco, non si lamentò, non perse tempo a lamentarsi, ma si mise immediatamente al lavoro. E dobbiamo dire un'altra cosa molto importante, che il curato d'Ars non pretendeva di cambiare il mondo. Lui voleva solo cambiare quel piccolo paese che Dio gli aveva affidato. E probabilmente se il curato d'Ars fosse vissuto in altra epoca o in una situazione diversa, avrebbe detto, avrebbe fatto delle cose diverse. Invece lui ha agito come prete del suo tempo in una situazione precisa, convertire 230 anime di un piccolo paese della zona di Lione. Ecco allora il suo programma, un programma che lui ha meditato dinanzi al tabernacolo. Anzitutto il desiderio, il primo desiderio è quello di prendere contatto coi parrocchiani, conoscerli. Il pastore deve conoscere le sue pecore, conoscere le famiglie, conoscere le situazioni in cui si trovano i suoi parrocchiani, e vedremo che farà subito un giro di visite e lo farà in un orario adatto dove ci sono tutti per il pranzo. Poi assicurarsi la collaborazione delle famiglie migliori. Il curato d'Ars era un uomo pratico e sapeva che bisogna usare anche certe tattiche per conquistare le anime, per cui usare dei buoni per convertire gli altri. E vediamo come fece con grande arte questa cosa. Poi migliorare i buoni, ecco, un buon parroco non trascura le pecore grasse, no? Anzi le cura perché non si indeboliscano, ma anzi perché si rafforzino ancora di più. Richiamare gli indifferenti, ecco, quelli che erano a mezzo e mezzo, che non erano né freddo né caldo, richiamarli anche con forza, usando tutte le armi che poteva usare. Convertire i peccatori scandalosi, quelli che trascinavano al male anche gli altri. Ma più di tutto il curato d'Ars si poggiava sull'aiuto di Dio, quindi la preghiera, dice, è solo pregando Dio che la parrocchia potrà cambiare, solo Lui può toccare le anime. E poi la penitenza, vedremo che il curato d'Ars si sottoporrà a delle penitenze davvero incredibili, che per noi oggi sono davvero assurde, però lui lo faceva con retta intenzione, proprio convinto dell'efficacia di questa arma. Ecco, il giovane curato magari era insufficiente come intelligenza, come l'avevano giudicato i suoi superiori prima dell'ordinazione. Tra l'altro non vi ho detto che subito dopo l'ordinazione il curato d'Ars non ebbe subito il permesso di confessare. Lo giudicavano ancora immaturo, incapace di risolvere i casi di coscienza, per cui hanno detto: devi ancora andare un pochino a scuola dal tuo parroco, devi rafforzarti in queste cose, allora poi ti daremo la facoltà di confessare. Non puoi confessare né donne né uomini né bambini, nessuno. E lui accettò con molta umiltà questa restrizione. E non ci crederete, poi quando venne finalmente la facoltà, il primo penitente fu proprio il suo parroco, che giusto in quel tempo cercava un padre spirituale. Comunque, il curato d'Ars possedeva questa grande umiltà e possedeva in sé la forza misteriosa della grazia. Ecco, ha basato tutto sulla grazia di Dio. sembra proprio che Dio abbia voluto in lui scegliere ciò che è debole per confondere i forti, ciò che è stolto per confondere i sapienti, ciò che è nulla per confondere le cose che sono, che pretendono di essere. Ecco, adesso mettiamo ancora un canto, poi concluderemo questa storia del curato d'Ars, almeno per questa puntata. Allora, adesso concludiamo questa puntata della storia del santo curato d'Ars. Spero gradita a tutti gli ascoltatori, sacerdoti e laici, perché il curato d'Ars rimane sempre un grande modello, anche se vissuto in epoca piuttosto lontana dalla nostra. Comunque, la domenica seguente il suo arrivo ad Ars, il santo curato riceve l'investitura, una cerimonia dove presiedeva un altro parroco dei dintorni, come una specie di rappresentante del vescovo, che sulla porta della chiesa metteva, anzi sulla porta della casa canonica metteva sulle spalle del nuovo curato la stola, quasi per investirlo dei poteri che gli aveva dato il vescovo su quel territorio. Il santo curato entrava poi in chiesa, prendeva possesso dell'altare, dei confessionali, delle suppellettili sacre, eccetera. Ecco, in quell'occasione tutta Ars era radunata in chiesa per vedere il nuovo curato. Erano radunati per una ragione di fede, ma soprattutto per una ragione di curiosità. E nel corso della cerimonia i parrocchiani hanno subito notato una cosa che li ha sorpresi. Avevano intravisto questo pretucolo, diciamo, nei giorni precedenti a girarsi per la piazza, così magro, così gobbo, con una veste tanto malandata, con un'andatura tanto goffa, e l'avevano forse molti disprezzato, però vedendolo adesso all'altare celebrare la messa cambiano completamente concezione. E c'è un bisbiglio generale fra il pubblico, fra i partecipanti a questa messa inaugurale. Tutti si dicono: la nostra chiesa è piccola, la nostra chiesa è povera, il nostro paese è povero, però abbiamo acquistato un curato santo. Subito capiscono dal modo di celebrare la messa che questo uomo è un santo. E subito inizia in questi parrocchiani un senso di venerazione e di devozione verso il loro nuovo curato. Bene, adesso vediamo a riguardo del governo della canonica. Sappiamo che Don Vianney non si occupò per nulla del governo della sua casa, ma per i primi tempi lo affidò a una buona vedova che lui aveva portato dal paese dove era prima come viceparroco, che già si occupava di lui per la biancheria, per il guardaroba. E questa donna voleva, insomma, fare un po' da padrone in qualche modo, per il bene di Don Giovanni Maria. Però a lui dava molto fastidio questa presenza, per cui vedremo che in breve tempo, in poche settimane, cercherà di sbarazzarsi per essere più libero, diciamo, di compiere le sue penitenze e di fare tutto a suo piacimento. Poi si accorge che in questa casa ci sono troppe cose lussuose e si domanda chi mai le abbia messe, e viene a sapere che è stata proprio la contessina di Ars a portare questi mobili lussuosi, questi tappeti, queste poltrone, eccetera, appunto per rendere omaggio al nuovo parroco. Però lui dice: queste cose cosa ne faccio? Va a fare una visita alla castellana di Ars e dice: guardi, contessina, io la ringrazio per il suo interessamento, lei è stata troppo buona con me, però delle cose che mi ha dato quasi nessuna mi serve. Se le porti pure tutte al castello, che a me non servono. Non deve offendersi, ma guardi, il suo gesto lo apprezzo molto. Mi lasci soltanto una piccola libreria, un letto, qualche sedia, un tavolo, insomma le poche cose necessarie alla vita di un sacerdote. Tra l'altro, fra queste oggetti, fra questi mobili, c'era anche un girarrosto con lo spiedo, e il curato d'Ars si mette a ridere quando lo vede. Non sa la contessina di Ars che la mia dieta è molto parca, è molto sobria, io mi accontento di pochissimo, non ho bisogno del girarrosto con lo spiedo. E guardate che questa sua semplicità, questo suo spirito di povertà colpì molto la gente di Ars, perché la gente è molto sensibile a queste cose, Se vede un prete davvero distaccato dai beni materiali, allora se ne innamora subito, viene conquistata. Questo spirito di povertà dà molta forza alla Chiesa, e lo spirito di povertà fu al massimo grado nel curato d'Ars. Per cui i ricchi del paese fecero, per così dire, l'esame di coscienza, si sentirono toccati da questo comportamento del nuovo parroco e furono più disposti alla generosità, allo spirito di povertà anche loro, di sobrietà. Mentre i mendicanti, i poveri, allora ne gioirono profondamente perché videro nel curato d'Ars un aiuto prezioso. Difatti quando arrivò aveva il portafogli pieno e dopo pochi giorni lo aveva già completamente svuotato, perché a qualsiasi richiesta lui dava generosamente e per cui i soldi gli durarono pochissimo. Allora vediamo, per finire, ormai siamo alla mezzanotte, questo primo atto del suo ministero, la visita alle famiglie. Mi pare che sia stata una cosa molto intelligente. Un pastore deve anzitutto conoscere il suo gregge. Allora, il curato d'Ars pensò che per visitare le famiglie non bisognava andare in un orario strano, ma bisognava andare in un orario adatto, quando la famiglia è riunita, e non c'era migliore occasione che uscire proprio a mezzogiorno di casa e giorno per giorno visitare un certo numero di famiglie. Erano in tutto 60. E notate che quando entrava in casa il signor curato, a parte che non si metteva a tavola anche lui, ma non parlava subito di cose di religione, molto intelligentemente parlava invece degli interessi di queste famiglie: come va il raccolto, come vanno le campagne, cosa fanno i vostri figli, se studiano, a quale carriera sono avviati, eccetera eccetera. Poi soltanto quando usciva, quasi buttando là una battuta, allora diceva qualcosa che riguardava la fede, e dalle risposte che riceveva lui si poteva fare subito un'idea dello stato di salute di queste anime. Quindi è stato preziosissimo questo lavoro, durato parecchio tempo, di visitare le famiglie, e ci scoprì molte lacune, molte miserie. Constatò con dolore che un certo numero dei suoi parrocchiani ignorava perfino le nozioni elementari del catechismo, specialmente i giovani fra i 25 e i 35 anni, quelli che erano cresciuti proprio durante la Rivoluzione francese e che quindi tante volte si vantavano perfino di essere miscredenti, appunto perché erano vissuti, erano cresciuti in un ambiente miscredente. Si vantavano di essere i primi nei balli, nella profanazione della domenica, e in tutte queste cose dicevano di non vederci niente di male, ma anzi di fare cosa buona, di fare cosa che insomma vale molto. Quindi il curato d'Ars si chiede come fare adesso per ricondurre all'ovile tutte queste pecore perdute. Sente la sua grande impotenza, non si perde però di coraggio, gli rimangono due cose, gli rimane Dio e l'avvenire, e giocherà tutte le sue carte per attirare a Dio queste anime. Ecco, adesso allora un po' di musica ancora, e poi diamo il numero di telefono e iniziamo la seconda parte. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.